una piazza aperta al mondo, ai cittadini, alle cittadine, ai ragazzi che frequentano il quartiere, quindi troveranno una pista da skateboard e tantissime iniziative sin dalla mattina. Sarà un luogo dove poter stare in tranquillità senza necessariamente consumare, ci sarà la possibilità di avere anche un'offerta gastronomica e di seguire bellissimi concerti che partiranno proprio dal 9 con Eugenio Bennato fino ad arrivare al mese di ottobre. Sarà un luogo che impareremo a conoscere, a usare, e infatti questi mesi servono anche a sperimentare gli usi di questa piazza, perché accanto alla piazza Lucio Dalla inaugureremo in autunno la casa di quartiere nuova Katia Bertasi, e insieme al quartiere stiamo proprio usando e useremo questi mesi per discutere con i cittadini e sperimentare anche che tipo di attività con la casa di quartiere potranno essere portate avanti.